Credo che tutti quanti ce lo stiamo chiedendo se questo è finalmente il tappo di quella bottiglia così effervescente di mercati finanziari che sta preoccupando gran parte del mondo. Io, senza voler cadere nello scetticismo, però sarei molto cauto per un motivo. Quando si prestano dei soldi a qualcuno che è in bancarotta, bisognerebbe anche accertarsi che sia in grado di ripagarli, altrimenti non finiamo più. Allora, qual è il problema della Grecia? Il problema della Grecia è alla ennesima potenza quello dell'Europa, si cresce poco, anzi nel caso greco si va addirittura a marcia indietro perché il paese è in recessione come il Portogallo. Allora, o la Grecia da sola crea le condizioni affinché non è questione solo di ripagare i debiti, ma affinché il paese si risollevi e cominci a crescere, e allora qualunque piano va bene. Va bene qualunque piano perché un paese che cresce è un paese in grado di onorare le sue scadenze, di fornire ai cittadini i servizi essenziali di cui hanno diritto pagando le tasse, ma è anche un paese che può riconquistare un posto credibile in un contesto internazionale come quello europeo, dove non dimentichiamoci che questa crisi è cominciata con un bilancio falso presentato proprio dai politici greci.